senza sole, neanche un fiore vive più. Quanta pioggia sta cadendo giù. Zitto cuore, non gridare, tanto lei non sentirà. Nell'amore non c'è verità. So già che le direi, il cuore senza te non ce la fa. Lungo il viale senza sole, neanche un fiore vive più. Quanta pioggia sta cadendo giù. C'è qualcuno che mi chiama, il mio cuore trema già. Quanto costa la felicità? Tristezza che leggi negli occhi miei. Appena si alza il vento, appena si alza il vento, volerà. Ma se tornasse lei, so già che le direi, il cuore senza te non ce la fa. Non ce la fa.